parla perché restiamo all'esterno del tuo gruppo bello. Ci piace vivere nel nostro inferno. Il nostro ingegno lo impieghiamo in pratiche che ti fanno schicciarsi, frate, dai, stringi le natiche. Facendo guerra con i ricchi, politici convinti, tutti in buona fede, sì, però son finti. Non ne possiamo più di certe situazioni, per questo ci diamo a stupefacenti ed alte gradazioni. E KL ci supporta, noi tipi da forca, voglia ne abbiamo molta, ma è la vita nostra che è corrotta. Cazzo José, diglielo, spiegalo a tutti, com'è che possono parlare anche i deceduti. Qui vivi muti, nati morti e sputi, matti in giro e tutti urla e stanno zitti, mai che qualcheduno parli e non a vanvera. Rappresento il mondo che sovrasta sulla macchina, one of these night, camminando per la side, a raccolta questi zombie per distruggere ogni mind. E non dirmi che lo sai, ragazzo, cosa fai? Molla il cazzo di PC e vivi la tua life. Sassari fantasma, infetta il tuo karma, cazzo, bruci in rabbia e poi tieni la calma. Se ti stai scherzando, allora datti ad altro, perché a questo punto del rap io me ne sbatto. La lama che sanguina l'uomo contro la macchina, il fiume che non sargina, la barca tua non naviga. Fuori controllo, vado fuori controllo, fuori dal tuo mondo, fuori dal tuo mondo. La lama che sanguina l'uomo contro la macchina, il fiume che non sargina, la barca tua non naviga. Fuori controllo, vado fuori controllo, fuori dal tuo mondo, fuori dal tuo mondo. Definirsi pop al giorno d'oggi è troppo facile, io così mi definisco perché sono instabile. Nel senso che non me la passo bene, sconto pene, buona per chi crede, a testa alta non si siede. È la cultura che ti salva, che ti dà coscienza, ti permette di gettare merda a chi sta in testa ad un sistema dove tu sei una pedina, e se non vuoi che ti manovrino non devi stare in riga. È la controffensiva di noi giovani ingabbiati in un buco del cazzo dove ci sentiamo scomodi. Pace, amore, tutto molto bello, ma quella situazione è un'altra, non è questa la realtà. E non pensare che fuggendo scappi dalla falsità, ho visto che la merda è sempre in giro in ogni città. Frate, ora coltiva il tuo odio, comunque va, dovranno farti fuori per portarti via da qua. Ma la resistenza oggigiorno in utopia, tipo tipe che si vedono grasse e vivo nell'anoressia, tipo teledipendenti che non vedono ipocrisia in quel cazzo di TV che sempre spenta in casa mia. E sia man contro machine, le volgari delinquenze ad unia di più che fuck police, fuck everything, fallo tu machine, non scappare via da qui, e stampa un bel sorriso col TNT. E sì, man contro machine, l'uomo contro la macchina, DJ KL, morto che parla, questo è il controsistema. La lama che sanguina l'uomo contro la macchina, il fiume che non sargina, la barca tua non naviga. Fuori controllo, vado fuori controllo, fuori dal tuo mondo, fuori dal tuo mondo. La lama che sanguina l'uomo contro la macchina, il fiume che non sargina, la barca tua non naviga. Fuori controllo, vado fuori controllo, fuori dal tuo mondo, fuori dal tuo mondo.